Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Partiamo bene già, partiamo senza aprire neanche il microfono. Maximilian Cellino, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Siamo impegnatissimi stamattina con una scrivania ricoperta di carte, incartamenti, giornali degli ultimi giorni, perché parliamo di un tema molto importante. Dopo quella per le imprese, scatta da gennaio prossimo la moratoria delle banche sulle rate dei mutui. L'ha deciso due giorni fa il comitato esecutivo dell'ABI, l'associazione bancaria italiana, che ha approvato il piano famiglie. La sospensione del pagamento delle rate avrà una durata di 12 mesi. Le associazioni dei consumatori chiedevano qualcosa in più, ma insomma è già qualcosa. E secondo stime bancarie, le famiglie interessate saranno 110-120 mila, per un valore complessivo di 8 miliardi di mutui residui. Questo è l'ennesimo intervento del sistema bancario italiano a sostegno delle famiglie in difficoltà con il mutuo. Ce ne sono stati tanti dal maggio del 2008, per la verità un intervento c'era stato anche prima che non ha dato buon esito, ma stamattina rifaremo un po' un punto della situazione ancora una volta su questo tema, che è sicuramente, come l'ho già definito molte volte, il grande cavallo di battaglia della nostra trasmissione. Dicevo, l'ennesimo intervento del sistema bancario, qualcuno ha funzionato bene, qualcun altro un po' meno. In ogni caso adesso ci interessa capire quali sono i nuclei familiari che potranno dal prossimo anno chiedere alla banca di sospendere il proprio mutuo, perché all'interno della propria dimensione domestica sono cambiate le condizioni economiche, perché c'è chi ha perso il lavoro, chi è in cassa integrazione, chi è in mobilità, per cui entrano meno soldi e il mutuo non si riesce a pagare. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, per ancora una volta parlare con Maximilian Cellino di Plus 24, il Sole 24 che abbiamo già salutato, e Angelo Peppetti, settore crediti retail dell'ABI. Dottor Peppetti, bentornato a Salva Danaio anche a lei. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro Adiconsum stima, che è stata una delle associazioni dei consumatori che di più ha lavorato per ottenere questo intervento, stima che al provvedimento sarà interessata almeno una famiglia su cinque. Vi ho ricordato i numeri, rapidamente la borsa, oggi giornata positiva per i mercati europei, anche se adesso vedo che in molte piazze hanno rallentato decisamente il passo. Parigi e Francoforte stanno guadagnando lo 0,8-0,9%, sono arrivate stamattina a guadagnare più di un punto e mezzo. Londra più 1,19%, peraltro la situazione è un po' cambiata proprio dopo la diffusione del dato sul prodotto interno lordo inglese, che è risultato inferiore alle attese, quindi dal Regno Unito ancora cattive notizie sullo stato di salute dell'economia. E lo scivolone più pesante lo mette a segno Piazza Affari, il FTSE MIB è passato in negativo, meno 0,08%, adesso per le vendite che oggi sono ritornate sul settore bancario, sul settore tecnologico, Unicredit meno 2,20, STM meno 2, Impregilo meno 1,67, un ribasso di un punto abbondante per il Banco Popolare, per Mondadori, per Unipol e per Snam Rete Gas. Segno più invece sull'automatica, abbiamo un rialzo di 2 punti, Fiat più 1,84, Parmalat più 1,58, Prismian più 1,41%. Le trimestrali che sono arrivate ieri dagli Stati Uniti, American Express, Amazon, sono state positive perché il mercato americano ha risposto molto bene ieri sera. Oggi arrivano tanti altri dati societari, li terremo naturalmente sotto controllo. Il petrolio ancora flirta con gli 82 dollari al barile, almeno ieri a New York era su questi livelli. Il Brent a Londra è a 80 dollari e soprattutto l'euro sul dollaro ormai ha conquistato e ha intenzione di mantenersi saldo al di sopra di questa soglia, 1,50, 1,50,39 adesso il rapporto di cambio con il dollaro. Peraltro, Maximilian, Euribor a 3 mesi stamattina, nuovo minimo storico per i tassi interbancari, siamo allo 0,73%. Sì, è un tic, come dicono i tecnici, cioè sta praticamente su quel livello, 0,75, 0,74, 0,73, un millesimo. È un pavimento che secondo te è solido? È bella domanda, dici tu. L'idea è che prima o poi dovranno cominciare a trovarlo questo pavimento. Diciamo che attorno allo 0,75, poco meno, poco più, ci sta ormai da più di un mese. Le previsioni sono per una stabilizzazione e poi una graduale risalita negli anni futuri. I mercati intesi come i contratti futures sull'Euribor scontano una risalita progressiva, non tipo quella ovviamente che non è avvenuta violenta come negli anni scorsi. Certo, si tratta appunto di quello che il mercato sta scontando adesso, secondo i dati che ha adesso. E io invito sempre a non prendere per oro colato queste indicazioni del mercato, anche se è chiaro che sarà difficile che l'economia si rimetta in moto così rapidamente, che le banche poi alzino i tassi di interesse, trascinando con sé anche gli Euribor. Allora, in ogni caso, noi oggi, a parte l'Euribor, che ci interessa perché naturalmente questo livello ha comportato una riduzione davvero notevole per tutte le famiglie che hanno potuto mantenere i nervi saldi e quindi mantenere il mutuo a tasso variabile senza rinegoziarlo. Detto questo, c'è però chi è ancora in difficoltà e, pur avendo visto una rata abbassarsi notevolmente, adesso invece per il cambio delle condizioni familiari non riesce più comunque a fare fronte a questo impegno. Sentiamo allora cosa potrà succedere da gennaio. Mutuo sospeso per un anno per le famiglie in difficoltà. È questa l'ultima iniziativa intrapresa dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che prenderà il via a gennaio 2010. Una strada aperta a tutti coloro che hanno perso il posto di lavoro a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo determinato o parasubordinato, il cui contratto è scaduto, ma anche ai lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività, quelli in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, e infine anche ai nuclei in cui è deceduto chi manteneva la famiglia. L'intervento, accolto con favore anche dalle associazioni dei consumatori, secondo le prime stime coinvolgerà circa 110.000 famiglie, per un controvalore totale che si aggira intorno agli 8 miliardi di euro. E in attesa di maggiori dettagli sulle modalità del congelamento del mutuo, non resta che capire se e come le banche vorranno aderire all'invito dell'associazione. I primi segnali sembrano tuttavia essere favorevoli. I principali istituti bancari, da Intesa San Paolo a Banco Popolare, da BPM a Montepaschi, hanno già detto sì. La Banca Popolare di Vicenza ha inoltre annunciato che la durata del provvedimento sarà di 18 mesi anziché 12. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Figuriamoci cosa non sta già capitando al centralino anche questa mattina. C'è da ricordare naturalmente che accanto a questa iniziativa che è stata presa appunto proprio per questo atto dell'ente istituzionale che rappresenta le banche, ovviamente in questi mesi quasi tutti gli istituti bancari si sono mossi in maniera individuale per cercare appunto di aiutare le famiglie in difficoltà, e quindi ci sarà anche da capire un po' queste iniziative tra quelle individuali e quelle generali, appunto, come si intrecceranno. Quindi ci sono tante domande a cui dare una risposta. Angelo Peppetti dell'ABI, io vengo subito a lei. Naturalmente siete stati davvero in questi giorni un po' su tutti gli organi di stampa, perché chiaramente tutti vogliamo conoscere le modalità con cui avverrà questa sospensione. Intanto mi chiedo subito, a partire da gennaio, perché che cosa potrà succedere a partire da questo mese? Io credo anche che per il modo in cui la notizia è stata enfatizzata e divulgata in questi giorni, le famiglie che hanno un grave stato di necessità saranno convinte di avere diritto di non poter più pagare il mutuo già da gennaio, per cui non so, il monitoraggio delle banche inizierà da subito? Sì, inizierà immediatamente. Noi abbiamo preso anche un po' di tempo, in modo tale che a partire dal 1 gennaio 2010 tutte le banche saranno pronte il giorno dopo a sospendere le rate del mutuo qualora il cliente si presenti e richieda la sospensione. Noi stiamo definendo adesso i dettagli, che poi verranno ovviamente confrontati con tutti gli stakeholder che di fatto sono impegnati, interessati al piano famiglie, che sono il governo, gli enti locali, l'associazione dei consumatori, la conferenza episcopale italiana, in cui abbiamo avviato ad esempio l'iniziativa del fondo di garanzia per il microcredito. Stiamo definendo il modulo di adesione, verrà poi pubblicato sul sito dell'ABI, verrà poi distribuito presso le filiali delle banche. Riteniamo che aderiranno massicciamente le nostre banche, come lei aveva già annunciato, per un'iniziativa che per noi è fondamentale, ritengo, anzi ne sono sicuro, non ha uguali a livello internazionale. Nessun paese è stato mai avviato a livello così massivo da parte dell'industria bancaria un'iniziativa a favore delle famiglie, per evitare che vadano in servenza in situazioni di contingenza, in eventi che non dipendono ovviamente dalle loro volontà, come appunto la morte e la perdita del posto contratto, certo, di lavoro, l'entrata in cassa integrazione. Peppetti, però io le volevo chiedere subito una cosa, visto che appunto state predisponendo, come dire, le technicality del provvedimento. Molte famiglie avranno già nel corso dell'ultimo anno, ultimo anno e mezzo, rinegoziato il mutuo con la banca. Qualcuno magari avrà, visto che le banche, qualcuna ha dato questa opportunità, sospeso. Qualora la situazione di disagio fosse proseguita in questo lasso di tempo, però, a chi ha già approfittato di iniziative individuali della banca potrà continuare ancora ad avere questo sostegno, oppure per esempio queste famiglie saranno escluse dal nuovo intervento? No, guardi, allora, la nostra idea, non posso anticipare nulla perché, ripeto, stiamo ancora definendo i dettagli. La nostra idea è quella che comunque anche i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione, per fare un esempio, o operazione di portabilità, o anche i mutui che sono stati oggetto di cartolarizzazione, rientrano comunque nell'ambito di applicazione della nostra iniziativa. Allora, c'è naturalmente adesso da stabilire anche come questa sospensione poi verrà spalmata, no? Nel mutuo residuo. Però io le faccio sentire anche Peppetti, lo faccio sentire anche a Maximilian, un primo intervento di un ascoltatore, si chiama Daniele, con il quale per la verità ho intrattenuto una fitta corrispondenza in questi giorni, perché lui, ancora prima che arrivasse la moratoria dell'ABI, ha già intavolato una seria discussione con la propria banca, perché Daniele non riesce proprio a sospendere il suo mutuo, e quindi in questo caso, come dire, l'iniziativa individuale della banca non è stata presa, e di conseguenza l'ascoltatore appunto non riesce al momento a ritrovare un po' di serenità familiare. Daniele, ci racconti il suo caso e poi lo commenteremo nella seconda parte di Salvadanaio. Intanto benvenuto. Pronto? Pronto. Sì, sì, grazie, complimenti per la trasmissione. Niente, allora, io ho un mutuo a 20 anni sottoscritto 2 anni fa presso la mia banca a tasso fisso. A febbraio del 2009 sono rimasto senza lavoro in disoccupazione e volevo sistemare un attimo il mutuo. Ho visto che il Credito Artigiano aveva a giugno fatto un comunicato stampa che per i poveri acquistavi Tremonti Bond, e sono andato allora alla mia banca, alla filiale, a chiedergli baldanzoso di poter sospendere il mutuo. Loro mi hanno detto a ottobre che ancora la disposizione non erano state, in per i poveri l'iter non era ancora stato concluso e quindi non c'era nessuna possibilità di sospendere il mutuo se non una rinegoziazione. Tra le povere uno cambiava il tipo di mutuo per avere una tassa, mi scusi, per avere una rata un po' più leggera, una rata un po' più bassa. Però lei non basta. No, perché abbiamo fatto delle valutazioni e il mutuo fisso a 25 anni, la rata venivano di poche decine di euro inferiore. Abbiamo fatto col mutuo a tasso variabile, mi sembra al 3,5, e la rata veniva un po' più piccola, di 70-80 euro. Però a questo punto l'unica possibilità era quest'ultima, e non so se fortuna oppure no, la possibilità che il Credito Artigiano dava era che questo mutuo aveva una flessibilità, cioè io potevo ogni mese decidere se pagare una rata maggiore o una rata inferiore, e il mutuo come un organetto si allungava. Si allungava, certo. Che è stata... sì. Nulla. Devo dire però che il Credito Artigiano aveva già fatto una sua, non so, per sua decisione, per quanto riguardava le partite IVA e le aziende, la possibilità di fare una moratoria sui loro mutui. Qui perché c'è stata un'altra iniziativa dell'ABI, e c'è anche da ammettere appunto che per le imprese la situazione è stata lo stesso, particolarmente complicata. Allora Daniele, io tra l'altro le chiedo un attimo di aspettare, adesso andiamo in pausa, sentiamo il meteo, un po' di pubblicità, perché chiaramente Daniele si trova in questo momento in una situazione molto difficile, magari potrebbe anche aderire teoricamente alla moratoria di gennaio, ma potrebbe anche rischiare di non riuscire a pagare il mutuo in questi 2-3 mesi, trovandosi poi di fatto in una situazione di difficoltà ulteriore. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Questa mattina abbiamo cominciato ad indagare su quello che potrà essere il funzionamento da gennaio della cosiddetta moratoria delle banche sulle rate dei mutui. Allora, dettagli ancora non ce ne sono moltissimi, perché è tutto il procedimento in corso di trattativa tra l'Associazione delle Banche Italiane, il Governo, le associazioni dei consumatori, per cui oltre al fatto che è stato stabilito abbastanza chiaramente chi avrà diritto a questa sospensione, a questa moratoria, poi naturalmente bisognerà vedere che tipo di documentazione questi aventi diritto dovranno presentare, quindi il modulo di adesione che è in corso di preparazione all'ABI. Di fatto però, in attesa di tutto questo e alla luce del fatto che molte banche hanno già dato facoltà a molte famiglie di fermare, stoppare il proprio mutuo, c'è chi invece con la banca non l'ha spuntata, pur essendosi ritrovato in una condizione di forte difficoltà economica familiare. Ci ha raccontato il suo caso Daniele, un mutuo di 20 anni, stipulato 2 anni fa, lui non ce la fa, adesso ha attivato tutti i canali necessari con la sua banca banca. Per poter alleggerire il peso della rata, lui vorrebbe sospenderlo. Di fatto, Maximilian, all'ascoltatore cosa possiamo dire? Intanto la banca di cui stavamo parlando ha fatto richiesta per i Tremonti Bond e quindi anche in virtù di quello potrebbe dare l'opportunità a Daniele di sospenderlo, però... Sì, però l'iter è ancora in corso e questo è un po' ci porta a parlare di uno dei possibili problemi che mi auguro di non riscontrare nel piano famiglie, cioè che a gennaio poi non si sia pronti di fatto a dare questo aiuto alle banche. I Tremonti Bond sono stati lanciati a maggio, sono state numerosissime le lettere che anche online abbiamo ricevuto di persone che chiedevano sospensione, però di fatto adesso nessuno è riuscito a usufruire di questa misura. Addirittura c'era un progetto, un fondo di solidarietà addirittura stanziato dal governo Prodi, aveva stanziato 20 milioni di euro, il fondo cosiddetto Gasparrini, dal nome della deputata che lo aveva lanciato. Che è la presidente peraltro di Federcasalini, esatto. Molto sensibile alle tematiche anche familiari. Esatto, no? Questo fondo qui risale appunto a fine del 2007 e non è stato mai attuato, non è stato mai lanciato poi definitivamente per la mancanza dei regolamenti attuativi. Regolamenti attuativi che mi risulta siano ancora al vaglio del Consiglio di Stato. Tra l'altro era un fondo che permetteva la sospensione addirittura per 18 mesi e per due volte nell'arco dell'intero piano di ammortamento. Un fondo che peraltro, almeno nel progetto iniziale, prevedeva lo spostamento proprio delle rate al futuro e nessun aggravio di oneri per il cliente. Un problema questo che andrà ben chiarito, anche prima Peppetti ne stava parlando, andrà ben chiarito che cosa potrà accadere per il piano famiglia, perché il rischio è che accada come quello che è successo per i terremotati di Abruzzo. Si sono stati sospesi le rate, ma al momento però di pagarle devono versare anche gli interessi maturati arretrati ed è una bella spesa che molti non saranno probabilmente in grado di... Certo, c'è un altro quesito in realtà. Con Daniele non abbiamo terminato la nostra telefonata, però io ho tutto il carteggio che è intercorso fra me e lui in questi ultimi due giorni. Daniele teme anche, dottor Peppetti, qui vorrei risentire lei, che la sua banca, anche se abbiamo già dato ampie rassicurazioni che gran parte del sistema bancario aderirà a quella che si definisce la moral suasion, non della associazione di categoria, ma se la banca di Daniele non dovesse aderire a questa iniziativa, lui deve comunque accontentarsi della rinegoziazione che porta verso il basso la sua rata, ma lui ha bisogno di sospendere completamente, insomma, qua che succederebbe secondo lei? Innanzitutto l'esempio dell'ascoltatore che ci faceva, che ci parlava dei suoi problemi, fa sottolineare come sia comunque importante l'iniziativa dell'associazione bancaria. Noi riteniamo che le adesioni saranno massicce, supereranno l'80-90% dell'industria bancaria. Questo è il nostro, non solo il nostro auspicio, ma la nostra sensazione. Qualora il cliente sia così, come dire, sfortunato da capitare in una banca che non ha aderito, l'unica soluzione è l'operazione di portabilità dei mutui. Stiamo parlando di tutte iniziative che, ripeto, non esistono in altri paesi, cioè la portabilità, la rinegoziazione, l'iniziativa di sospensione, cioè sono iniziative che non esistono, sono presenti soltanto in Italia. Bisogna apprezzare questa volontà e no, ma noi, guardi, dottor Peppetti, la apprezziamo senz'altro, a patto che naturalmente poi si trasferisca agli sportelli con una certa elasticità e che poi, come così noi ci stavamo un po' interrogando anche con Maximilian Cellino a microfoni spenti, che poi invece non si traduca con un'eccessiva rigidità allo sportello, e cioè tu per aver diritto alla sospensione del mutuo devi essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro, parasubordinato o assimilato in cui il contratto è terminato, lavoratore autonomo che ha cessato l'attività, cioè tutti i criteri ci sono tutti quanti, però non vorrei che per esempio il lavoratore dipendente che ha perso improvvisamente il posto di lavoro e che magari fino all'anno scorso guadagnava un tot di reddito, come dire, al di sopra di una soglia che non so se avete intenzione di fissare anche questa, quindi è quello che io mi chiedo. Soglia di reddito definita, né intendiamo definirla. Perché qualche banca nell'iniziativa individuale l'ha fatto, quindi... Questo non sa. E ovviamente poi nell'adesione ciascuna banca potrà offrire condizioni migliorative, queste sono, ecco, diciamo, la piattaforma standard che è stato definito, poi ciascuna banca potrà ridurre gli interessi, allungare la sospensione, ampliare le fattispecie di finanziamento che potrebbero essere oggetto dell'interesse della sospensione. Questo, ripeto, dipende anche dalla sensibilità di ciascuna banca. Quello che possiamo dire è che sicuramente l'industria bancaria non ha alcun interesse a mandare in insolvenza un cliente. E questo è vero, certo, è anche perché poi si scatenano, insomma, si aprono tutte le conflittualità del caso che non finiscono più, sia per il ovviamente contraente del mutuo, ma anche per la banca. Allora, volevo farvi sentire Michela dalla provincia di Pordenone, perché ha un caso che come dire, potrebbe essere inserito proprio nella fattispecie che avevo appena definito. Michela. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ad ottobre ho perso il lavoro, uh-huh, e ad ottobre avevo già fatto anche il mutuo. E quando è stato il momento che sono usciti i Tremonti Bond, sono andata subito a vedere in banca. Sì. E mi hanno detto... Che banca ha intanto, Michela? Ce lo può dire? Com'è? Qual è la sua banca? Unicredit. Che non ha fatto richiesta dei Tremonti Bond, lo sa? Com'è? Non ha fatto la richiesta dei Tremonti Bond, per cui... Comunque Unicredit ha tante iniziative in casa per aiutare le famiglie, sì. Allora, io ho chiesto e mi hanno detto che mi serviva i redditi dell'anno scorso. Sì. Io con i redditi dell'anno scorso non rientravo. Mi hanno fatto vedere proprio le carte. Sì, che infatti, perché queste. Unicredit ha fatto l'iniziativa insieme a 2009, adesso ce l'abbiamo proprio qui sotto agli occhi con Maximilian Cellino. Di conseguenza lei non ha potuto far niente? No. Ho chiesto allora la rinegoziazione, se certo, si poteva cambiare. No, mi hanno detto che era tutto bloccato, che non potevo. Avrei solo dovuto cambiare banca, chiedere la portabilità, però in quel caso lì, io avendo perso il posto di lavoro, nessuna banca ti rifà certo il mutuo, avendo solo un garante. Allora Michela, dunque, visto che stavo pensando, iniziativa 2009, ho ricevuto un nuovo comunicato stampa stamattina, pregandomi anche tra l'altro di raccontarlo, e poi di fatto c'è una bella chiusura di una porta nei confronti di una persona che ha bisogno. Teoricamente a gennaio Michela potrebbe anche avere la sospensione del mutuo. Maximilian. Sì, ma è un caso emblematico e non è l'unico, perché ci sono molte persone che hanno perso il lavoro nel 2008, vanno alla banca che molto gentilmente ha creato un piano di aiuto alle famiglie, però la banca gli chiede il reddito del 2007. E dicono sì, ma io nel 2007 ancora lavoravo. Per cui ecco, questo per dire una cosa, è bello, è positivo che anche nell'ultimo piano lanciato dall'ABI ci siano delle norme fisse che chiariscono chi può entrare e chi no, però non vorrei che questo creasse un'eccessiva rigidità nelle banche, di modo che le persone che si trovano un po' al confine, e penso magari a persone che hanno ancora il lavoro, che magari hanno l'azienda ha attuato un contratto di solidarietà per cui magari ha lo stipendio ridotto del 30%, non ce la fanno lo stesso a pagare le rate del mutuo, questi non possono in teoria rientrare. La signora ha perso il lavoro nel 2008 e non poteva rientrare nel piano Unicredit che riguardava i redditi del 2007. Potrà rientrare a pieno diritto a gennaio Possiamo 2010. Dire che la tenga duro per due mesi. Mi viene anche da ridere l'atteggiamento del direttore che le dice: ma perché non fai la portabilità, vattene, portati via questo mutuo, che anche lì, insomma. Peppetti, le posso chiedere un commento su questo? Sono un po' troppo cattiva, ma io qualche volta... Il concetto è questo, che sostanzialmente ogni volta che si stabilisce un requisito c'è sempre un confine, no? Un po' come quando si diceva allo zoo si paga solo se sei più basso di 1,50 m, e se sono 1,51 m, e se sei 1,51 m paghi. Però questo, voglio dire, è evidente che un insieme di requisiti noi li dobbiamo definire, poi ci sarà ciascuna banca che adotterà più o meno in funzione della loro sensibilità la possibilità di offrire condizioni migliori e quindi ampliare, rendere meno flessibili, rendere meno rigidi, quindi più flessibili questi requisiti. Io ritengo che certamente le banche che aderiranno non potranno opporsi a sospendere la rata del mutuo, quindi sospendere l'ammortamento qualora il cliente che rientra nei requisiti lo richiede. Questa è già una cosa, a mio avviso, molto importante. Michela, però ci faccio la cortesia, ci può scrivere il suo caso, ci dà qualche dettaglio in più, perché vorrei sentirli direttamente, perché questa è una questione che mi interessa molto. Allora, va bene, la ringrazio. Adesso sentiamo, intanto, se può, tenga duro, e poi vediamo se a gennaio le daranno retta o meno. La moratoria sui mutui da parte del sistema bancario si parte a gennaio, si stanno predisponendo tutti i dettagli dei parametri per coloro che avranno diritto o meno a questa sospensione, e purtroppo la platea degli aventi diritto si sta allargando di mese in mese. Questo è un trimestre difficilissimo e non stiamo facendo altro che raccogliere testimonianze di chi sta perdendo il lavoro, sta tentando di andare in banca a chiedere una sospensione. Noi comprendiamo benissimo che la banca non ha nessun obbligo a sottoscrivere queste richieste, perché è chiaro, sono contratti sottoscritti in passato, non ha l'obbligo, però di fatto non ha neanche nessun interesse ad aprire, insomma, tutte questi contenziosi, chiamiamoli così, poi con la clientela. Tra l'altro c'è un ascoltatore che adesso non faremo in tempo a sentire, Vittorio da Roma, che vorrebbe anche dirci al telefono che l'Euribor è talmente basso che alle banche conviene quasi anche sospendere i mutui in questo momento, perché non percepiscono interessi. Sentiamo Omar da Milano invece. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Salve. Il mio era un intervento per quanto riguarda appunto gli interessi che verranno applicati dalle banche, perché sicuramente se le banche aderiranno e così faranno, sarà proprio perché ci sarà sicuramente un rientro, insomma, alquanto cospicuo. Io le dico così perché ho già avuto modo di sospendere il mio mutuo, e sospendendo il mio mutuo con Monte dei Paschi di Siena, comunque pagando gli interessi mi ritroverò a pagare intorno, insomma, ai 5.000 euro di interessi, che poi verranno spalmati su tutte le rate, su 25 anni, sicuramente, insomma, la rata aumenta di poco, però nel tempo. Certo. Insomma, d'altronde, Omar, se lei avesse avuto, se anziché sostituire il mutuo, fosse andato a chiedere un prestito, no, per, come dire, sopperire in questa situazione di difficoltà, per sistemare, per gestire questa situazione di difficoltà, avrebbe anche dovuto restituire questo prestito, ci avrebbe pagato gli interessi, per cui tutto sommato forse è meglio agire sul canale del mutuo che è già in piedi. Maximilian, non so se questa così. Sì, attenzione, poi interessi e quota capitale, perché esatto, ovviamente una rata è composta da entrambe. Ricordiamolo, da quota interessi e quota capitale, insomma, quella che non pagate in questi 12 mesi in qualche modo andrà recuperata, a meno che proprio tutto il piano di ammortamento del mutuo non venga spostato di un anno in avanti. Però questa è una cosa che andrà chiarita. Non Infatti, so se è facile da fare, anche esatto, perché qui potrebbero sorgere problemi con le ipoteche, penso. Certo, Peppetti, so che lei non ci vuole dare ancora molti dettagli perché non li avete, peraltro, però dopo i 12 mesi di moratoria i titolari dei mutui ricominceranno a pagare le rate, ma l'importo come sarà ricalcolato? Dunque, allora, durante il periodo di ammortamento, di sospensione, scusate, ovviamente il cliente non paga assolutamente nulla, le rate sono sospese. Certo. Tuttavia maturano gli interessi sul debito residuo. Questi interessi verranno poi successivamente spalmati al riavvio dell'ammortamento su un determinato arco temporale che ovviamente... So che state discutendo di 5-10 anni, non è ancora ben chiaro quanto sarà questo. Questi sono dettagli che ancora non abbiamo definito. Per quanto riguarda invece l'allungamento, ovviamente se si sospende di un anno si trasla la durata per questo anno. Il problema dell'ipoteca, basta un'annotazione a nostre spese a margine, insomma. Quindi il piano di ammortamento si allunga comunque di un anno, ma certo, solamente per la quota capitale, ovviamente. Gli interessi invece vengono spalmati. Sì, esattamente. I trasfer vengono spalmati, ovviamente non a tali interessi che maturano non verranno applicati ovviamente ulteriori interessi, e chiaramente allunghiamo la durata perché altrimenti la rata verrebbe più alta, insomma, non è il nostro interesse. 800 24 00 24, stiamo continuando ancora a raccogliere le vostre testimonianze. Sentiamo Massimo da Roma. Massimo? Buongiorno, Massimo da Roma, complimenti per la trasmissione, signora Deborah. Grazie Massimo. Io volevo sicuramente approvo la nuova iniziativa del governo al 100%, una cosa lecita che aiuta tanta gente che ha il mutuo, tuttora ha il mutuo da pagare, le rate eccetera. Il problema che volevo evidenziare è anche una mancanza di controllo sui nuovi mutui che vengono erogati in questo momento. Sì. Vale a dire che c'è gente che si troverà in difficoltà futura con mutui che stanno ancora per stipulare, incoscienti del fatto che molti di questi mutui sono a rata, con una rata di cui la quota capitale è costante, vale a dire stipulare un piano di ammortamento con quota di capitale costante ad un tasso basso determina una quota capitale della rata molto alta, che non verrà mai toccata nell'arco dell'ammortamento stesso. Quindi, allora aspetti un attimo Massimo, non abbiamo capito l'obiezione. Allora, vabbè, a parte il fatto che adesso è un po' più difficile ottenere un mutuo perché le banche hanno un po' irrigidito i parametri, e questo forse ci sta, facciamo in modo che fra qualche anno non ci ritroviamo di nuovo a parlare di tutte queste iniziative, no, di rinegoziazione, quindi forse un po' più di rigidità ci vuole anche, a parte che non sia eccessiva. Non ho capito l'obiezione. Allora, i nuovi mutuatari che stanno sottoscrivendo mutui nuovi di che tipo? Signora Deborah, ci sono molti prodotti in questo momento, sì, di alcune banche, anche molto importanti, che propongono dei mutui a piano di ammortamento con quota di capitale costante, vale a dire che non verrà mai toccata la quota capitale, come si sposerà al momento della stipula, ed è una quota di capitale particolarmente alta nella rata, vale a dire la parte di quota capitale è molto alta e viene determinata alla stipula. In futuro, quando il tasso sale, certo, io ci sommerò una quota interessi molto più alta di quella che pagherò oggi. Allora, sì, guardi, stavo adesso cercando di capire che tipologia di mutuo stiamo parlando, appunto con Maximilian Cellino, e peraltro il tempo a disposizione è già terminato. Allora, qual è la proposta a cui si sta riferendo l'ascoltatore? Maximilian, adesso credo di aver capito a cosa si riferisce. È un problema, una questione tecnica. Non è che la rata è alta, la quota capitale. La quota capitale viene, in genere si tratta di piani di ammortamento alla francese, la quota capitale viene calcolata ed è crescente nel corso, sì, del tempo. Adesso è un po' più bassa, poi crescerà man mano, esatto, cosa sta dicendo l'ascoltatore? Che spesso le banche possono fare due cose: o in sede di rogito stipulano fissano le quote capitale e le tengono poi, questo si parla ovviamente di mutui a tasso variabile, le tengono poi fisse per tutto il piano di ammortamento, oppure le ricalcolano nei momenti in cui variano. Parliamo di quote capitale. Purtroppo mi rendo conto è un problema estremamente tecnico e si corre il rischio di fare. Infatti. Allora, io adesso chiedo veni a Massimo da Roma, magari su questo tema ci andiamo in un altro momento. Oggi il tema era la moratoria. Salvadanaio è terminata. Peppetti dell'ABI, abbiamo detto tutto, no di sicuro, ci dovremo sicuramente tornare quando sarete pronti, ma magari abbiamo perso qualche informazione importante che l'ABI tiene a dare alle famiglie in attesa? Sì, a breve, ripeto, a breve, l'ho dato all'inizio ma lo voglio ripetere, troverete sia presso le filiali delle banche, sia presso i siti delle banche, il sito dell'associazione bancaria, il modulo di richiesta. E potete, una volta pubblicato con tale modo, chiedere la sospensione, che però si attiverà a partire da gennaio. Ma l'importante, insomma, è che non tutta la procedura parta da gennaio per permettere invece la sospensione tipo da marzo o d'aprile, perché l'importante è che quando sarà pronto questo modulo ci avvisi, perché ci rifaremo un'altra puntata di Salvadanaio. Assolutamente, a disposizione. grazie ad Angelo Peppetti, grazie a Maximilian Cellino. Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti.